stato poi un'esecuzione. No, non ha nulla. Ha fatto un casino. Sabato, un casino ci ha fatto un computer. Ma ieri c'è la professora del computer. Allora. Va bene, sabato, io faccio un attimo di bianco, le prendo subito, sabato. Va bene. Dottore, mi conosce una ragazza brava, poi dico che abita in continente. La vuoi conoscere? Presentamela. Eh? La presento? Sì, presentamela. Vabbè, non so come si chiama l'amica tua. Te la presento, boh. Aspetta, io non può. Allora. Prova a parlare, vedere. Parla. Io? Oh, parla con la volta, professoria. Ma se la rigenerare, è qua che mi ce la vega. Salvatore. Ma peccato, noi facciamo un po' di soldi a Tamazia. Tu non hai i soldi, Salvatore. Soldi, tu che hai soldi? E io ho i soldi già nel pantalone. No, che ce li hai sul pantalone? Fattore! Sì, dimmi! Allora, la vuoi conoscere? Ehi, la voglio conoscere! Ma devi andare a Civitavecchia però a conoscerla! Ma andare a Civitavecchia! Sì, a Civitavecchia, eh! Vabbè, perché? Buzzino. sì, al cuore, ma se non ci vuoi andare? Ma c'è da troppo a te conoscere, non ci mancherebbe altro. Ma perché ti ammazzo, così conosci anche lì. Vai, vai, vai Salvatore. Oh, oh, ma qua c'è anche Antonio, Falchetto, di un attivo a Baracchino. Lui è sposato. Un attore qua, non è un attore, non so, un fumo. E dire che li faccio la casa, io. Anche mi fa la casa gratis. Porta cosa, la natura te la cosa. Fattura, anche se ti gacco, anche se muatti. Se non c'è buffoneggiala, via. Comunque Salvatò, a parte gli scherzi. Lo scegli, ho Marzia, a parte di Marzia ha 34 anni. E Sonia è del 69, ha 40 anni, quasi 41. Fate la scelta. 42, 41 l'ha fatto l'anno scorso. Chi? Tu 42 ne hai? Sono le frequenze. Perché qui,

Sandro? Sandro! Ti sta chiamando Falchetto! Eia, Alessandro, ben sentito, Pio Pio sì, dove sei, dove te la trovi? Niente. Un po'. Ah, sono d'accordo, tutto a posto. Ciao Roberto, io tutto a posto, in compagnia di Tore da Itteri, di Salvatore Parragricola, Luca momentaneamente è sparito, è sottoscritto qua. Vabbè, saluto generale a tutti, dai, non ho fatto ascolto, ho appena acceso un attimino, detto, cioè, se c'è qualcuno, comunque Roberto da questa parte, dai, riprendi tu e fai girare, fa che riepiloga chi c'è in frequenza. Gappa, gappa, avanti Salvatore per Barra Agricola per Roberto Quadrato, le fai girare. Ciao Roberto Quadrato. Ciao Salvatore, come siete anche a te, poi avanti gli altri, così saluto a tutti a uno a uno. Sì, non ho capito il nominativo, se vuoi ripetere, per favore. Sì, beh, senti qualche attentore. Come arrivo dalle tue parti? Andiamo, va benissimo. Poi chi c'era? Se no, mi sono dimenticato qualche volta, qualche altro. No, negativo, poi c'era Luca, poi c'era questo Sandro che è a Sassari, ma non sentivo più Pio. E niente, tutto qua. Cappa, credo che non si è sentito. No, negativo. E dimmi una cosa, e tu come mai questo stand-by che... Ah, ho detto, mi sto preparando la sera per questo cacchio d'esame, vediamo un po', ho lavorato la spacca questa volta. Ah, cappa, cappa, andiamo a bere. Vediamo, l'ultimo tentativo è questo. Ti stavo anche pensando, ce ne trovi chissà Roberto Quadrato. E invece mi sei spuntato proprio il mio pensiero. No, mi sono dimenticato degli amici, dai, purtroppo ho poco tempo, dai, lo stavo dedicando allo studio, per quel poco che sto studiando, perché ho pochissimo tempo a disposizione, ma qualcosina vediamo di fare, dai, vediamo un po' come va a finire. Dai, dovrebbe andare a finire bene, dai, sì, caspita. Me lo auguro anch'io, l'importante è che ci siano le domande di quello che ho studiato, solo quello che mi auguro, perché al limite la colpa è la mia, se non rispondo alle domande che ho studiato, è brutto. Quando ti capitano le domande che non conosci. Cappa, cappa, cappa di noce. Ma sperando, diciamo, le domande che tu hai studiato, che te le facciamo loro anche, e così si è accavato, Vabbè, non è così facile. Vediamo, facciamo girare, vediamo Tore da Itteri, dai, avanti un po'. Che apparato stavo utilizzando, Tore? Sto usando il 735 da Itteri, ho preso un microfono, puoi avere la guardia medico, non ti sento un po' cupo sinceramente, dai. Va bene la radio, prova un po' a fare un altro passaggio, do uno sguardo qua, vediamo un po' come cosa ci dice l'apparecchiatura. Cupo, forse perché come avevate le guardie d'accordo, vediamo perché se lo faccio migliore, cupo mi alzi, così va meglio. Sicuramente sì, prova un po' il livello, vediamo i livelli, come stai? Prova a salire. Secondo me dovresti sollevare un peluzzino. Io ho dei parametri qua, degli indicatori, che mi danno dei riferimenti, sei leggermente bassino. Vediamo un po' fino a quanto puoi sollevare. Sì, un pochettino, può andare anche così, dai, non c'è problema. E batteria, quanto li saranno? Quanti batteri sta uscendo? C'è un po' di rimbombo, abbassa un pochettino, non so, da che distanza dal microfono. Questo sembra tipo un effetto riverbero, un leggero riverbero ti sta dando, prova a passare la prima amplificazione. Ma c'è anche il processore della radio inserito? No, il compressore è la microfono, può essere massimo uguale. Ma cos'è un coso? Non è l'unico il microfono? È come la Roni, Ma io ce l'ho l'Adonis, ne ho dato una Claudio, l'altra piccolata, il 908 ce l'ho dell'Adonis con l'equalizzatore, compressore, tre tipi di compressione, poi utilizzare tre tipi di apparati, quello è un bel microfono. Forse non lo l'equalizzazione è un po' particolare col microfono, bisogna un po' avventarsi, dai, bisogna prenderci un po' di tempo, anche a me mi ha fatto disperare come regolazione. Diciamo, su questo tipo di apparato che sto utilizzando io, quello che si addice meglio è il 60, anche se a qualcuno può piacere più la Dunis, però vanno bene tutti e due, però secondo me puoi andare meglio con quel microfono. Ciao Robe! Ma tanto mi hai sentito dopo tanto. Buonasera a tutti, sono Tony. Ho cambiato apparato, Robe, poi sì, questa Dunis che anche io sono intenzionato, lo so che l'ho usato. Di che cosa? Di apparato? Di apparato? E a oggi mi ha rifatto, oggi mi ha rifatto. Ma in questo momento lo sto utilizzando? E a Roma a Vicente. C'è un segnalone, 9+20 sì, qua, sta andando una bomboletta, vabbè qua devo avvicinare sempre forte, ma sta andando un po' più forte del normale. Ok, Roma, io mi stavo pensando, capito, non stavo più modulando, Roma, quanto... Porta mamma nel corso, è stata ricoverata il 2 settembre per il reporta, un tumore fulminato, quindi le radi ora ho parcheggiate da una parte, ed era anche giovane ancora, c'erano 72 anni, quindi le radi erano parcheggiate dopo. Mi dispiace, faccio le condoglianze, non l'ho conosciuta, ma quindi mi dispiace lo stesso. Ok, facciamo girare un pochettino, sono qua, si monopolizza, riprendiamo dal più lontano, Salvatore avanti, Bar Agricola. Sto parlando, lo sentite? Ciao. E tu fai ok e poi fa girare. Lo sentivo. E io mi stavo giusto per entrare a dirvi che faccio una carichetta e rientro più tardi se ci siete. Vi saluto a tutti, dai, e ci sentiamo più tardi. Ciao Falchi, ti ascolto perfettamente, l'ultima radio non so cosa hai fatto, proprio la radio bella chiara e pulita, non so se hai fatto qualche lavoretto, comunque mi piace tantissimo la radio. No, sempre normale, sempre la stessa radio, lo stesso microfono, vabbè, tutto ok. Va benissimo, ok, ti ho detto, stai facendo carichetta, vabbè, allora ti auguro una buona carica, buon tutto, non so se mi trattengo molto, comunque, se non ci sentiamo, buon tutto per domani. Va bene, vabbè, non ci sono problemi, una carichetta e poi gli arrivo. Andiamo avanti, contore da Istria, avanti. Allora, io ce li avevo tutti e due della 12, il 908 me lo sono tenuto, tanto il piccolino mi sembra che sia... il 508, adesso non voglio dire fesserie, comunque ho levato il piccolo, quello che non ha regolazione. Non devi fare niente, c'è già le connessioni dietro, devi soltanto metterlo dove lo vuoi tu, senza bisogno di fare modifiche né niente. Diciamo ti devi perdere un po' di tempo per farti le regolazioni, perché adesso sinceramente non mi piace, con quel microfono dovresti uscire un po' meglio. Io adesso qua c'ho un analizzatore che mi dice come stai uscendo, oltre che l'orecchio. C'è un po' strano come modulazione, presenza di tonalità medie, però carenza di bassi e leggermente carenza di acuti. Diciamo potresti regolarti un po' meglio con la roba lì. Adesso provo a regolarlo. Ma vabbè, mira Luca, è bello. Molto chiusa, diciamo tipo un baratro, una cosa del genere, sento un effetto di rimbalzo di onda, dai. Non è assorbita l'onda, è molto riflessa. Ma devi stare attento al processore e al compressore, perché se c'è il processore inserito nell'apparato del compressore fai un po' di caos, dai, state un po' attenti. Diciamo hai migliorato, però c'è un problemino di strappamento, sai gracchiando, un pochettino, c'è qualche cosa che non fa quadrato. Inizia, mettetelo tutto in posizione centrale, senza quello, bisogna farlo a pezzo, iniziare dalle tonalità, prima le toglie e poi delle solidità, perché è molto sensibile, guarda, cambia, è una cosa impercettibile, qua solo tu che appena appena ti cambia tantissimo. Dici, aspetta, ve lo faccio sentire così me lo confermi, non me l'ha mai detto nessuno qua. dipende da apparato a apparato però, eh. Siamo? Questo è la Lunis, 908. Ecco, sto sapendo io, non capisco il preparativo. Adesso scusa. No, quello non influisce capisce, se c'hai tre microfoni in contemporanea, cioè mette microfoni, tre apparati in contemporanea, commuti A, B e C, se no non funziona quello. Io sono molto opinione in questa cosa, se è sufficiente come cosa, potresti migliorare, diciamo, bisogna, queste regolazioni che ti ho dato io sono per il Kenwood, bisogna farle per l'ICOM, è molto sensibile, molti difetti li potresti eliminare tu, però bisogna perderci un po' di tempo, dai. Sì, stai sporcando la modulazione. Capisci, se ancora tu questo lo ascolti? Però la voce tua sinceramente non la conosco dal vivo, per cui ti posso dire dove sei carente e basta. La modulazione, bisogna divertirsi, dai. E vedete, collegato io sono per un apparato della Kenwood, lì come c'è una modulazione diversa, un pochettino più cupa, diciamo, non è, diciamo, aperto come può essere il 440 per la M, non è adatto, diciamo, dovresti eliminare quei difetti di lì provando, appezzandosi con le regolazioni, e poi prova un po' senza il processore, togli il processore dall'apparato e metti il compressore, prova il compressore del coso, del microfono. Prova adesso, mettilo in posizione media. Prova qua, passaggio un po' più lungo. No, non va bene. Rimetti come era stato prima. No, il compressore del microfono, mettilo in posizione low, la minima. Prova adesso a sollevare piano piano il livello del microfono. Qua non mi sta cambiando niente, prova a mettilo in posizione massima, dai, poi così facciamo dal massimo al minimo. Questo è il massimo, quello del microfono. Riprova, scusa un attimino, Tony, mi hai detto, hai messo al massimo il livello microfonico del microfono, il mic gain del microfono. Sei al minimo. E adesso fai l'opposto, diminuisci il microfono e solleva quello dell'apparato, vediamo com'è la resa migliore, perché poi c'è un circuito di preamplificazione superiore a quello dell'apparato rispetto a quello che è qua per il microfono. mettiti un po' giù qua, ti dico il livello minimo e massimo che puoi sollevare, abbassa un po'. Solleva un po'. Solleva ancora un po'. Cosa c'è, a metà, tre quarti, come si... Attenzione, su 10 è rimasto qualcuno nel frattempo. Luca, ci sei ancora? Attenzione, 10 è rimasto qualcuno. Stai trappando. Quanto sei? Metà, tre quarti, dimmi un po'. Ma io dico una cosa, hai provato tu invece avvicinarti tu e a richiamare il microfono? Perché non lo vedo salire, io non lo sento salire questo microfono. Quando sale tanto distorce. L'indicatore è di picco qua, non ha nessun cambiamento. Ripetiamo, se con il compressore del microfono al minimo è il processore inserito o disinserito? Prova a metterlo adesso il processore dell'apparato. Tu sei a metà dell'apparato, del mic dell'apparato a metà, e a metà del mic del microfono. Sì, adesso vuole la metà, e poi arriva il compressore adesso l'apparato. Sta rimbombando, prova a abbassare un pochettino l'apparato. L'apparato. Vediamo, hai migliorato rispetto all'inizio tantissimo. Fai un passaggio più lungo e vediamo dov'è che devi correggere. Sì, allora tu sei predominante di frequenza intorno ai 400, aspetta cosa puoi fare. Abbassa il 540, abbassalo un pochettino. Migliorando, a cosa sei arrivato a 5.40? Mettimolo a 0, meno 12 un attimo, volevo avere un confronto. Quindi adesso è meno 12, adesso è proprio chiuso. Solleva un pochettino il 2000 adesso, o ce l'hai già al massimo? 2000 è al massimo. Aspetta un attimino, cosa si trovano le regolazioni, e prova a sollevare il 1000. Allora, questo sta già migliorando, stiamo già iniziando a vedere gli acuti. Quindi abbiamo abbassato il 5.40 e l'hai abbassato a 0, sei sotto 0, meno 12. Prova un attimino il 270, scendi anche quello lì a 0, sotto 0, meno 12. Aspetta un attimo, forse siamo andati troppo, fa un passaggio un po' più lungo. Dimmi una cosa, ma scusate, l'equalizzatore l'hai inserito tu? C'è la posizione OC, dove c'è scritto il mio OC, ON, sollevato. Sì, sollevato. Riprova un po' calare, riepiloghiamo. Tu dimmi, c'è il cursore degli acuti al massimo, dei 2000? Aspetta un attimino che qua c'è qualcosa non quadra. Abbassa, prova a abbassare il 1000 a 0 completamente. Sì, sì, prendo portata a 0. risolleva adesso il 540, mandalo verso il massimo. Allora, adesso c'è il 540 al massimo, sempre quello al massimo. Sì, prova a sollevare un po' il backgain adesso, della parete del microfono. Guarda, stai mirando tanti sensi, è un po' più naturale, non è ancora buona, diciamo, se la sufficienza al 7 come valore ti do, però è migliorata, a me è un po' più credibile la voce, perché sembrava la voce è tutta equalizzata male, diciamo. E il 260 ce l'hai a meno 12 adesso. Sì, il 260 a meno 12. Prova a metterlo a metà un attimino e mi fai due passaggi, a metà e poi a 0, a meno 12. Allora, adesso è a metà. Però fa un passaggio lungo adesso. 1, 2, 3, prova, guarda, adesso a metà, così a 0. Guarda, la batteria può andare bene, diciamo, non è eccezionale, però rispetto a come ti ho ascoltato all'inizio è migliorato tantissimo. Dovresti fare in modo che spinga un po' di più, perché è bassa come radio, la batteria potresti sollevare, solo che stai attenti a non saturare. Iniziamo. Quando ce l'hai il microfono del mic gain del microfono? Allora, è a metà. Prova a sollevarlo un po' adesso. Sì, è mirato tantissimo. Adesso facciamo un'ultima prova. Il compressore da low mettilo med, in posizione media. Prova a parlare. Prova. C'è un compressore dell'apparato che è inserito. Togli il compressore dell'apparato un attimo, il processore. Adesso aspetta, non sarà questa la regolazione. Adesso solleva, lascia senza processore dell'apparato e il compressore del microfono al massimo. Voglio capire le regolazioni e le escursioni. Un passaggio un po' più lungo. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, va bene, ho allora la radio, il livello di modulazione è salito tantissimo, ha migliorato tantissimo. Proviamo un po' se riusciamo ad arrivare al limite della saturazione sollevando il mic gain del microfono. Sì, il microfono, sollevarlo ancora. Sì, qua da parte mia puoi salire, voglio capire se riusciamo ad arrivare a non farlo distorcere. No, così sta lampeggiando il limite di saturazione qua dell'indicatore e non stai saturando neanche tu. Prova adesso appena appena l'apparato, tu sei al massimo col microfono, la macchina del microfono. No, al massimo, guarda qua, proviamo un pochettino, no, voglio vedere i limiti, fai vedere, vai ancora. Adesso sta iniziando a saturare, abbassa un pochettino. Guarda, la pandemia va bene così. Adesso prova, facciamo l'ultima regolazione, prova a sollevare il mic gain dell'apparato adesso. Niente, torna indietro, sta ascoltando la modulazione, ritorna come di prima. No, stai peggiorando, ora stai toccando te. Possibile, poi guarda, se lo lasci così secondo me va abbastanza bene. Puoi fare un'altra soluzione adesso, mettere in posizione media, tu hai detto il compressore della parte, il processore è staccato, metti in posizione media adesso e fammelo sentire, poi accendi l'altro passaggio, ma lo fai col processore inserito dell'apparato. Allora adesso sono meglio col compressore del microfono, qua a metà. Adesso è attacco il compressore della radio. L'hai acceso in questo momento? Allora, prova a parlare un po'. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. Va bene, prova adesso mettilo al massimo il compressore del microfono. No, stai restando. Allora, metti in posizione alta adesso, high, il compressore, e abbassa un pochettino il livello microfonico dell'apparato. No, non stai restando, riprova, fa un passaggio lungo. No, non mi piace. Aspetta, adesso cosa abbiamo detto? Sì, compressore al massimo, processore inserito e microfono, quanto sei? Compressore e microfono al massimo, il compressore inserito nella parte complesso, il microfono è uguale a fare quasi. Diciamo, questa è una, come dice Claudio, da combattimento, una modulazione da combattimento molto spinta, però qualitativamente era meglio prima. Se tu vuoi la qualità, regoliamo come era prima. Se ti vuoi far sentire in profondità e a lunga distanza, questa è un po' più potente. Devi escludere il compressore dell'apparato e mettere un po' più sul livello microfonico. Sì, allora questa è più naturale come modulazione, più salottiera, diciamo, dai, più tranquilla. L'altra è molto amplificata, si sente l'amplificazione. Vedi un po' tu, ascolta, a me piace più questa qui. Aspetta che metto la FM, 27.75 siamo. Niente. Perché se sento per quello lì passo dal compressore. dall'analizzatore sono rimaste invariate. In un primo momento mi sembravano un po' più potenti, diciamo più alte, ma è rimasto tutto invariato. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Gianni, 728, il compressore in AM non funziona, funziona solo in banda laterale. Poi mi sono seduto a guardare la TV parlando con loro, mi sono addormentato nel divano. Infatti mia moglie sa già come manovrare qua, aspetto il generale, aspetto tutto e praticamente sono attacco i carri. E la stessa cosa farò stasera perché sono a pizzico, sono stamattina in giro, avrò fatto, scendo 300-400 km per la città, Interland, proprio mi hanno crepato. Lavori, seguire impresa, andare e tornare, staccare qui, staccare là, stiamo avviando poi l'impianto nuovo di Tunco Reale e quindi vai, vieni, sali, scendi, guarda, so gabbetti già, poi con quelle scarpe antifortunistiche perché in questi giorni ho sempre la sicurezza appresso, quindi devo portarle anche io, altrimenti io uso scarpe normali, ma mi hanno crepato, ho fatto una doccia, proprio mi sono rilassato, ma non ho voglia di parlare, niente, e quindi vi stavo ascoltando, è tutta la sera che vi ascolto, ma non ho proprio voglia di stare seduto in radio a chiacchierare, perché non, i comandi non rispondono già, e quando non rispondono i comandi è un casino. C'è un chiattore di Itri, ottima modulazione, l'ultima regolazione che hai fatto andava molto bene, poi non so che cos'hai toccato, dottore. No, Roberto, non sono preparato in queste cose. Ora magari c'è la passione per regolare i microfoni, va molto bene. Sì, ti ho sentito poco fa, ho visto che eravate riusciti quasi a portarlo alla grande, poi siete passati in FM e cambiate i parametri, adesso giustamente devi decidere se tenere i parametri per l'OM o per l'FM, e purtroppo con le radio sono così, lì come sono così, non tengono sempre una finestra un po' per tutte le bande, varia, mentre la Kenwood è sempre quella timbrica, quindi OM, FM è sempre lì, anche banda laterale io non tocco mai niente, uso le stesse regolazioni, anche quando mi sposto in 10 metri col 440 uso sempre le stesse regolazioni. Va bene, vediamo se è rientrato Roberto. Sì, no, ci sono. No, diciamo, come tutto, bisogna pensarsi con quel microfono lì, è molto, molto sensibile. Dai, comunque, rispetto a come l'ho sentito all'inizio, ha migliorato tantissimo. Non è ancora al top, nel senso, non credo che si riesca ad arrivare alla modulazione del Kenwood, però rispetto a prima ha migliorato tantissimo. E tu cosa stai usando? Il 44 o il 430? Cioè, no, adesso sto usando il 440 perché era acceso questo, gli altri sono tutte spente. Li ho accesi adesso 430, 140, 180 e lì con 726, 7004 li ho accesi adesso. L'ho tutto spento, lo vi stavo ascoltando con questo qua, proprio a chi sono capiti. Ma morto veramente, no, oggi sono crepato. E domani la stessa cosa, toccherà tutto il giorno correre a destra e a sinistra. Vabbè, è il mio lavoro, lo devo fare, purtroppo è così. Avanti, capo dei ripeti. Anche io sono rientrato oggi, ci avremo tutti gli entri, guarda, fino a Rettini, a Vepo, e perché è entrata di nuovo la scuola media, a Cantieri, hanno finito i lavori, quindi. E ho viaggiato di nuovo anche fino a una certa ora la sera, e questo è il lavoro, ma però non è quello, non è proprio quando inizia a cambiare il tempo, io che ho messo MFG 948, strumento illuminato a scala incrociata, pulsantino rosso per l'illuminazione dello strumento, pulsantino nero per ridurre la velocità dello strumento, poi c'ha i quattro pomelli, ce l'ho, i quattro pomelli che sono la parte del tune e il bypass, e poi tre che accordano, uno il centrale e quello delle bande. Il selettore delle bande è quello A, B, C, D, F, G, eccetera, i due sono per regolare le stazionali in accordatura. Non è un ottimo strumentino, no? Già va bene. Un po' complicato, Ti devi cercare dal selettore, ti devi cercare le bande, già, capito? Quelle sigle A, B, C, D, quelle sono tutte bande che ti devi cercare tu. Io ad esempio ho la D, i 10 metri, la ciccio, i 20 metri e così via. Te le devi cercare tu quelle, se no non accorda. Sta arrivando benissimo già, non ti preoccupare. solo che non spinge molto, perché le caratteristiche del Nikon sono così, per una modulazione molto bella, chiara, pulita. Il segnale è un segnalone 6925 qua alla grande, quindi stai anche dando abbastanza gas, perciò va bene. Sono degli ottimi radio. Quello che ci vuole un bel microfono per dare un po' più di timbre, però sta arrivando benissimo Gianni, non c'è problema. Cioè, lo senti bene Gianni, vero? Per altre cose, ma mi fa bene anche così, mi ha contento di poco. Ah, e ti ti accontenti che va bene, no? Già, va benissimo, ottima radio, segnale, ripeto, non ce n'è per nessuno, avevi fortissimo 6,9 più 25, non arriva neanche il monte così, quindi immaginati, sei fortissimo, 9 più 25, la radio 5 perfetta, non hai nessun problema di rumore, di niente, non ti porti appresso niente, bellissima la modulazione. Poi quando metterai l'SM20 vedrai che ci sarà una miglioria sicuramente un po' generale, diciamo, dai, non c'è problema. Ok, d'accordo, dai, io vi saluto, rimango con l'X, aspetto che viene mia figlia adesso, ritorna mia figlia dal lavoro e poi me la vado a nanna. Ciao Gianni, ciao Tore, buon proseguimento a tutti e ci sentiamo. Inserisci l'antenna, c'è scritto dietro, antenna, scegli un'antenna 1, un'antenna 2, guarda che c'è il coaxial 1, coaxial 2, ti scegli la posizione di un'antenna, poi l'altro cavetto lo metti al trasmettitore e lo metti diretto già, lo metti diretto, ti scegli una posizione diretta, nel bypass, metti la posizione bypass, e ti fai segnare sia le stazionarie che i watt in uscita della radio, capito? Senza usare la curvatore. Usi il bypass e segna tranquillamente, normale, come uno strumento normale, no? Certissimamente, però facciamo questo nuovo spazio, lo mettete anche in corso e poi in corso non si accettano per gli altri filari, quelle per... Sì, sì, quelle sono per le filari. Come usare un bypass già, senza usarlo in posizione tune, cioè tune e bypass, hai visto dove c'è il primo tasto a sinistra vicino allo strumento, te lo metti in bypass e vedi un po' cosa ti segna, intanto è molto preciso perché c'è l'aro incrociato, è uno strumento professionale, MFG fa delle cose allucinanti, io ci ho uguale con lui, l'MFG Deluxe Versa Tuner 2, sì. Sì, è uguale a quel 948, hai detto, c'hai tu? Sì, a Versa Tuner 2, come quello che c'hai tu. Sì, sì, sì, va bene, va bene. Poi magari con calma, adesso oggi non li voglio già davvero. Con calma magari ci spostiamo un giorno in un canale e ti do le posizioni, quelle che praticamente usi anche se... vai fuori banda o vai sotto, vai sopra, capito, in coaxial 1, in tune, e poi fai l'accordata, mi pare che sia in C, nella posizione C, ti fai l'accordatura alla massima ricezione, vedi, è un bellissimo strumento, costa anche un pochino quello strumento, l'ho pagato sulle 180 euro, una cosa del genere, ma preso in fiera, preso la fiera di Bologna. Sono strumenti che professionale, l'MFG fa solo cosa professionale, quindi stai tranquillo che è un buon strumento. Già non ti ha fregato, un Negrini qualcosa l'ho comprato anch'io anni fa, poi ci siamo conosciuti in fiera, con Negrini, con DAE, con IRAE, con la telecomunicazione, li conosco tutti quelli perché espongono in fiera. Io ogni anno adesso vado il 23 dicembre. Cioè il 21 dicembre, il 23, dal 21 al 23 faccio quella di Genova, vediamo se c'è qualcosa da recuperare a basso costo, vedi, lì dovresti andare tu, lì dovresti andare, si parte da Porto Torres il venerdì sera, sabato mattina si è a Genova, ti guardi tutta la fiera per bene, tranquillamente, hai tutto il giorno libero e poi la sera alle 7 riprendi la nave da Genova e la domenica mattina si è a casa, quindi praticamente passi un sabato diverso, ecco, così ti accorgi di tutto quello che c'è proprio veramente nel mondo. secondo radianticipo, perché sono 14.000 metri quadri di esposizione, solo esclusivamente apparati inerenti alle telecomunicazioni, compresa anche la telefonia e naturalmente i computer, che prima non c'erano, adesso ci sono. E infatti, chiamo io, adesso vediamo che ti ritorna per il banco la cosa storia, hai capito, e poi perché non è su, hai capito, io poi andiamo in vacanza con la scuola, ho anche il tempo di andare come alla mia 50, ci facciamo anche un salto, ci siamo mai usciti, hai capito, proprio una volta me l'ho portata ancora, però per questo opere fisarmoniche mi hanno dato anche poca attenzione, però mi fa, quando volentieri non me la faccio una cosa di sposti, non sto fatto mai. Comunque di quella portatore, le istruzioni, ecco. Io la legge di istruzioni, già è facilissimo, devi solo cercare le bande, ma visto che tu non hai la possibilità ancora di trasmettere, in quelle bande, ti ripeto, lo metti, lo usi col bypass, però nel frattempo ti puoi fare una tabella e cercarti per bene tutte le bande. Ma te ne accorgi, perché quando tu per esempio vai in 40 metri a 7060, 7080, cosa fai? Te lo metti in posizione 2, schiacci la portante, che non succede niente, schiacci la portante e guardi se col selettore, quello dove sono i numeri A, B, C, D, eccetera, giri lì, girando lì vedi quando lo strumento si muove, vuol dire quella lì è la sua banda di accordatura, e la inizia a muovere e te la segni, ecco, e 40 metri li ho trovati. La stessa cosa fai nelle altre bande, vai in 80 metri, a 3.000 e 700, 3.750, e provi nuovamente a cercare col selettore, sempre dove ci sono i numeri, fino a quando vedi che lo strumento si muove, perché tanto se non trovi il selettore lo strumento non si muove. Quando si muove lo strumento già fai la stessa cosa che hai fatto in 40 metri e te lo segni, e così te le cerchi tutte. Quindi la A corrisponde agli 80 metri, la B corrisponde ai 20 metri, te lo prepari già. C'è la tabella e allora se la tabella è già pronta non c'è problema, ti muovi il selettore, te lo puoi usare anche in tune e in accordata, va benissimo, un ottimo strumento, te ripeto, io ce l'ho tanti anni, oddio, ce l'ho un paio d'anni, ed è l'unico che io uso in HF manualmente, con gli altri radio, quelli che non hanno l'accordatore automatico. Poi l'altro invece come strumento, proprio strumento di quelli professionali, uso il Magnum MN2000, che è grande, più grande di un apparato. È un bestione, c'ha 5 posizioni di antenna e fa solo l'osmetro ottimo, però senza accordatore. Però è molto preciso, molto perfetto, e quindi uso quello lì perché hai sempre bisogno di una taratura ottima, soprattutto quando usi l'amplificatore che ho io, che ho 1500 watt di picco, perciò quello è uno strumento che arriva fino a 3 kW, e quindi devi usare quegli strumenti lì, se no si usi quelli a ZG si scioglie tutto. Questo è tutto meccanico, c'è un induttore tutto ceramico all'interno, è una cosa professionale. Quando sta l'acqua e poi hai il tuo ricevitore, dovrebbe, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto, o è fatto ci voglio, guarda, settimane e settimane intere, sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi, un irradiale va accordato, un casino. Per quella GPC della Raimond, che è una grandissima cagata di antenna che non vale bene a dirlo, costa una barca di soldi. E quindi niente, non ne ho piazzato. L'alternativa che ho trovato è il dipolo 5 bande, 10, 20, 40, 80, e poi quello dei 6 metri ho messo. Filare, poca spesa, molto guadagno, vero che vado bene a tutte le parti, soprattutto in 20, lavora molto bene, ho fatto una buona invertita sul lato proprio interno del palazzo, non si vede manco dalla strada. Però tieni conto, io sono a 40 metri di altezza, quindi l'antenna lavora benissimo. Tu se sei molto aperto ti conviene fare una semi V rovesciata e ti metti una filare già. Poi per le VLU Tonino vende quelle antenne bibanda della Midland che vanno molto bene, che costano una sessantina di euro, 60-70 euro, e ci metti una bibanda così, di quelle X50, che sono antenne da 1,5 metri, non è che sono grandi, io ho quella da 5,60 m, però tu metti quella piccola e va bene lo stesso. Buonasera. Ok, intanto non le devo usare, grazie, metterò col video per dirti anche per usarlo come dice Pippone, capito, però io l'altro che ho visto l'altro lì, metterò come un tassone che si aspetta, poi per una roba, però a parlare non mi permetto, perché sono una persona, capito, la passione è tantissima, però anche la cautela è tantissima. Spero che un giorno invece, così che non tu abbia la patente, allora sì che, diciamo, non è per collare, sto facendo queste cose qua. Se io mi lasciassero perché a vecchiaia non saprei dove andare, mi rimango così con queste cose. Beh, è giusto così, Gianni, è giusto così, infatti, è una passione che abbiamo da ragazzini, o... Prese allora la patente perché sono stato costretto, ero sempre pirata, ero sempre a tre parti, la passione era tanta, mi piaceva, quindi non andavo a disturbare, ma ero sempre fuori banda e quindi riesco a fare, io ci volevo arricchire le mie spalle, alla fine mi sono rotto le scarpe, ho detto massivo, mi sono messo, l'ho preso e quindi la retenzione è l'uso. Adesso è più corretta, è anche più, insomma, sei più tranquillo, ecco, c'è più tranquillità, perciò puoi detenere tutto, non c'è problema. Per parlare a 27 basta anche un baracchino, non è quello il problema. Io sto aspettando il falegname che mi dia l'altro pezzo di questa base che va fatta la L con l'angolo, diciamo, curvato per il computer, dove dicevano tutti i baracchini, quindi non faccio altro che girare solo la sedia e parlare col baracchino, decidere con che cosa voglio parlare. Ancora sono già ordinato così, però non mi piace perché la scrivania non è uguale alla base che ho, e quindi ho fatto una base amatoriale, una base CB, va bene così, era quello che volevo fare. Ma vediamo, domani ci ripasso da Giulio Dollaro, vediamo a che punto è, se mi ha incollato almeno già le tavole, se l'ha messo già in lavorazione, e così terminiamo anche questo. Va bene, già, d'accordo, dai. E comunque vai benissimo, non ti preoccupare, usalo e vai avanti così alla grande. Poi se hai bisogno di qualche consulenza già sai dove trovarmi, non c'è problema. Buonasera, signor Spaviera. Guarda, accetto tutto, accetto le consulenze, perché sono una persona, te lo metto, nella mia pochezza, nella mia miseria, e niente, tra io, se c'è uno che ne sa più di me, lo trovo, non un ignorante, perché gli incontri ho sempre visita, però c'è gente che ne sa più di me, quello l'ho sempre detto, e c'è gente che ne sa più di me, quindi io consigli, ne chiedo tanti, non so per le altre, anche per altre cose, però se c'è qualche cosa, io magari non direi le cose per poter usare uno. purtroppo anche l'altro amico lì che si sta ascoltando, Salvatore, il KB2, fa quel rating, però non è che sto facendo quel rating perché non ha più acceso un po'. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao Gianni, anch'io mi allontano dalla radio. Ciao Sandro. Ciao Capri2, come va Pasquale? Come va cosa? Cosa fare? Sembra che stia andando bene. Prova, vuoi il segnale? Ok, tieni un attimino, prova. Va bene, meglio, molto meglio dell'altro sicuramente. Su quello non ci piove, una modulazione molto più pacata, con tonalità medio-alte. L'altra era troppo confusa la modulazione, troppo. E ok, infatti ti ascolto in stereo, ti ascolto in stereo. Signore 9+20, come l'altro. Però i picchi sono già positivi, sono regolati sicuramente, la modulazione è bellissima, molto bella, ti ripeto, hai delle tonalità medio-alte, molto chiare rispetto all'altro microfono che usavi prima, e ti posso dire che ti posso fare i complimenti se hai fatto quelle regolazioni tu, perché hai azzeccato in pieno ciò che lui deve dare, insomma, qua in AM, ecco. No, vabbè, ancora è tutto da vedere. Io adesso ho letto un attimino il manuale, ho visto un attimino i parametri e ho cercato di vedere un po'. Addirittura qua di stazionari e c'ho pure uno, almeno mi sta segnando un E1 e sembra che procedi bene. Non so se ti ascolta Capri, Gianni lo senti o Sandro? Sì Sandro, buonasera, ti ascolto meglio di come sta modulando stasera. Ti rimetto il cambio e dici tu mi ascolti bene. Capa, ciao Capri2, mi hai sentito, una settimana di mano. Ma guarda, ti ascolto, non ti posso dire una bugia, ti ascolto bene, non ho QRM, diciamo non ho QRM, QRM ce l'ho però bassissimo, riesco a attenuarti, e comunque riesco ad ascoltarti. Ecco, no, tu mi avevi bene, direttamente, ti posso dare un Santiago di 6, una Radio 4, c'erano i campionamenti, quindi li ho accompagnati negli impianti, poi c'erano direzioni lavori, balle varie, insomma. Ti dico che l'altra mattina invece sono rientrato con le 8, quindi non ho fatto più. Era ancora lì, stasera stavo ascoltando qua sul 10, ho visto che è sempre trafficato e sono contento. Sono andato a salutare, infatti a dare qualche dritta a Gianni sulla radio, ma ho visto che vi siete già attrezzati, insomma, fatto le vostre comparazioni tranquillamente senza il mio aiuto e sono contentissimo. Vai bene Sandro, vai bene, direi che i parametri sono quelli giusti, la modulazione, ripeto, ribadisco, è perfetta. Non ho niente da dirti Sandro, i picchi sono positivi, va tutto bene, va tutto bene. Continua a leggerti il manuale, che ce n'è tanto da leggere su quella radio. Così ci devi fare qualche altra misurazione, qualche altra comparazione per farla tranquillamente, poi sappi che io sono sempre qua. Se hai bisogno di un supporto no, non ci sono problemi. Ok. Un abbraccio grande anche a te, ciao a te, c'è anche a tuoi litri in stand-by. Nuovamente un saluto anche a nuovamente a Gianni. Ecco qua, mia figlia è entrata a lavoro, quindi adesso me ne sto un po' con loro. Un abbraccio a tutti i circolari sul canale 10. Nel bene e nel male di tutti, io saluto sempre. Ciao a tutti, anche lì se vado più a lì o chiudo perché sennò rischio di sbattermi la testa alla scrivania e sfasciare anche il microfono. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Claudio. Buona, come si dice? Buon tutto e mi sentisci alle prossime. Forza, niente, ci aggiorniamo domani che sono un po' più tranquillo. E vediamo un po' di fare qualche altro controllo. Ok, ciao, un abbraccio a domani, ciao a tutti, buonanotte.